Sabato notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Peraltro il ministro Padoan ha vissuto questa giornata con grandissima difficoltà, non per le considerazioni che voi immaginate, adesso tensioni, per le quattro giornate al... No, non c'è niente da ridere, stamani mattina peraltro è stato oggetto di una lunga discussione circa la prova TV e la correttezza di questo intervento, ma io non posso dire niente perché sono Presidente del Consiglio e non vorrei entrare in vicende che non... Stiamo parlando di destro, del centravanti della Roma, e il ministro Padoan è notoriamente un tifoso laziale, per cui su queste cose le soffre. Speriamo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che queste preoccupazioni calcistiche non abbiano poi compromesso anche il varo di questo DEF tanto atteso, documento di programmazione economica e finanziaria, che andremo a scandagliare tra poco, man mano, con vari interventi. Naturalmente buona parte della trasmissione sarà dedicata a questo, ma ci sono anche tanti altri argomenti strettamente invece politici, perché sapete che la riforma del Senato continua molto a far discutere. Ieri la Forza Italia che si metteva un po' di traverso al governo Renzi, oggi è lo stesso PD, una parte del PD, in realtà la minoranza. Naturalmente ci sono sempre i due canali per i vostri commenti, le vostre opinioni, sono la pagina Facebook di Effetto Notte o i messaggi, gli sms al 349-238-6666 sui vari argomenti, che possono essere anche appunto le misure che capiremo tra poco del DEF, oppure la riforma del Senato con le varie opzioni. Adesso c'è questo disegno di legge, questa proposta di legge della minoranza del PD che potrebbe essere appoggiata dal Movimento 5 Stelle, ma intanto, prima di passare ad altri argomenti, vi riassumo la giornata. DEF approvato dal Consiglio dei Ministri, il documento di economia e finanza. Dalle privatizzazioni arriveranno nel 2014 12 miliardi. La riforma del Senato, il PD si spacca, il Movimento 5 Stelle apre il disegno di legge della minoranza del Partito Democratico. Crisi, il Fondo Monetario Internazionale insiste sul rischio deflazione. La decisione su Berlusconi, il sito di Avvenire rivela che potrebbe andare ad assistere i disabili. Molfetta, incidente sul lavoro, un operaio rischia la vita, il padre e il fratello muoiono per salvarlo. Università, in 64.000 i test di medicina per 10.000 posti, domani e giovedì le nuove prove. E per il calcio questa sera la Champions sceglie le prime due semifinaliste. Partiamo quindi dall'atteso DEF. Il Consiglio dei Ministri ha varato il documento di programmazione economica e finanziaria, nel quale dovrebbero finalmente essere contenuti i dettagli sulle misure annunciate dallo stesso Renzi lo scorso 12 marzo, a cominciare proprio dallo sconto sull'IRPEF per 80 euro al mese da destinare a chi percepisce un reddito basso, nel senso chi prende sino a 1.500 euro. Poi c'è stata la conferenza stampa di Renzi, avete sentito questo passaggio drammatico sul calcio, e l'ha seguita per noi Vincenzo Miglietta a Roma. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora Vincenzo, una conferenza stampa, come sempre Renzi ci ha messo un po' del suo umorismo, della sua capacità comunicativa, ma poi andando al sodo, a parte le questioni calcistiche, che non mi sembra che ti vedano molto interessata. Faccio finta di essere interessata. C'è stato un dibattito molto importante tra Renzi e il Ministro dell'Economia. A parte gli scherzi, Renzi ha rivendicato, abbiamo mantenuto gli impegni, e quindi ha ricordato quali sono gli impegni che, con i quali aveva esordito due mesi fa, quindi la riforma del lavoro. Renzi dice l'abbiamo presentata a marzo e via via ha fatto un cronoprogramma di quello che aspetterà l'esecutivo da qui ai prossimi mesi, quindi la pubblica amministrazione in aprile, il fisco a maggio, la giustizia a giugno. Ha poi dato le famose coperture dell'intervento da 10 miliardi sul cuneo fiscale. Roberta, poi in realtà per il 2014 non si tratta proprio di 10 miliardi, ma considerando gli 80 euro in busta paga da maggio in poi fino alla fine dell'anno, Renzi ha detto si tratta di 6,7 miliardi. Quali sono le coperture? 4,5 miliardi arriveranno dalla spending review e poi 2,2 miliardi dall'aumento del gettito IVA e dall'aumento della tassazione sulla rivalutazione delle quote di Banca Italia. Si tratta di un intervento di giustizia sociale, ha detto Renzi, questi 80 euro al mese in più in busta paga per chi guadagna fino a 1.500 euro. Quindi da una parte Renzi ha ricordato quello che andrà a fare il governo e poi ha avuto anche un attimo della sua conferenza stampa dedicata al al cammino delle riforme, quelle più politiche, la legge elettorale e la legge di riforma del Senato, e ha garantito entro il 25 di maggio, auspicato che almeno uno dei rami del Parlamento possa affrontarle. Questa in sostanza la conferenza stampa, con un passaggio molto importante del ministro dell'economia Padoan, che ha detto: rispettiamo i parametri europei, i nostri conti sono a posto, ma in Europa lotteremo perché si guardi di più alla crescita. E questo si ripete da tanto tempo, vedremo appunto se ci saranno effettivamente dei riscontri. Grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Grazie. Ciao Vincenzo. Poi ci soffermeremo ulteriormente con il vice direttore del Sole 24 Ore su questi dettagli del DEF. Intanto il governo, tra l'altro, deve fare i conti anche con le previsioni del Fondo Monetario Internazionale diffuse oggi a Washington. Previsioni poco rassicuranti. L'economia italiana torna a crescere quest'anno, il PIL, prodotto interno lordo, salirà dello 0,6% nel 2014 per accelerare nel 2015 all'1,1%. Il tasso di disoccupazione si attesterà al 12,4% quest'anno, all'11,9% il prossimo, ma nelle previsioni del fondo l'anno prossimo la Grecia avrà una performance di crescita più alta della nostra, al 2,8%. Quindi praticamente il Fondo Monetario ha detto che noi saremmo messi peggio della Grecia, che non è molto lusinghiera. Intanto sono preoccupanti anche i dati INPS sul lavoro. Diminuiscono le ore di cassa integrazione ordinaria, aumentano invece quelle della CIG straordinaria, mentre scendono le domande di disoccupazione, lo rende noto l'INPS. Nel complesso in marzo sono state autorizzate 100,1 milioni di ore di cassa integrazione tra interventi ordinari e straordinari in deroga, con un aumento del 2,1% rispetto al mese di marzo 2013, quando le ore erano state 98 milioni. Nel dettaglio, la cassa integrazione ordinaria cala del 20% e scende a 27,4 milioni di ore autorizzate rispetto ai 34,2 milioni del 2013. Invece la CIG straordinaria autorizzata, sempre a marzo, sale a 45,5 milioni, in aumento del 14,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quando le ore sono state 39,6 milioni. Quanto alle domande di disoccupazione, in febbraio sono state 126.855, il 4,7 in meno rispetto alle 133.045 del febbraio dell'anno scorso. In questo caso però occorre ricordare che dal 1 gennaio 2013 sono entrate in vigore l'ASPI e la mini-ASPI, cioè l'assicurazione sociale per l'impiego. Quindi le domande per licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 hanno ancora la vecchia classificazione di disoccupazione ordinaria. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo alla politica, in senso più stretto, sempre alta in questi giorni la tensione sulle riforme. Al Senato, prima, ieri parlavamo appunto di Forza Italia, di Brunetta. Al Senato la minoranza del PD oggi si è detta contraria alla cancellazione dell'Assemblea e pronta a nuove alleanze. Il Movimento 5 Stelle apre alle riforme, il PD si spacca, situazione d'impasse al Senato dove il capogruppo grillino Vincenzo Santangelo non boccia l'idea di una maggioranza alternativa, tutto partendo dal disegno di legge a firma Vannino Chiti, PD, su una Camera alta elettiva. Ma sentiamo Santangelo. Il Movimento 5 Stelle non chiede soltanto l'abolizione del Senato, chiede la riforma di tutto il Parlamento, con una riduzione dal punto di vista economico che è ben tre volte rispetto a quella sbandierata da Renzi. Ben 300 milioni di euro piuttosto che 100 milioni di euro. Arriva però subito lo stop del capogruppo PD a Palazzo Madama Luigi Zanda, che ribadisce il no a riforme del Senato alternative a quella del Premier Matteo Renzi. Noi lavoriamo per votare il disegno di legge che riguarda il Senato, titolo quinto e CNEL, e in prima lettura entro il 25 di maggio, e lavoriamo per portare tutto il gruppo del PD unitario. Per Giovanni Toti, Forza Italia, c'è un patto e bisogna andare avanti con serietà. Nel frattempo il disegno di legge del governo viene firmato senza correzioni dal capo dello Stato Giorgio Napolitano. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il dibattito politico risente però anche delle fibrillazioni intorno al destino giudiziario di Silvio Berlusconi. Infatti giovedì 10 il Tribunale di Sorveglianza discuterà come e dove fa scontare all'ex Presidente del Consiglio la pena per la condanna al processo Mediaset. La decisione avverrà entro 5 giorni, a partire dal 10 aprile. In extremis, due parlamentari di Forza Italia approvano anche la strada del ricorso a Strasburgo. Domani infatti doveva essere presentata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo un'iniziativa per chiedere la possibilità di Berlusconi di candidarsi, in quanto sarebbe leso il diritto degli elettori azzurri di votarlo. A presentarla due parlamentari appunto di Forza Italia, che sono Elena Centemero e Deborah Bergamini. Allora sentiamo la Bergamini al microfono di Raffaella Calandra. Non è un ricorso, è un'iniziativa di tipo istituzional popolare che presentiamo domani ed è indirizzata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si riferisce a un aspetto legato ai diritti politici. La Corte intanto si è preso in serata, ha rifiutato la richiesta già presentata dall'avvocata Anna Palacio, sempre per consentire la candidatura di Berlusconi. Non è chiaro però al momento se si tratti della stessa che le due parlamentari intendono presentare domani. A far discutere c'è anche la puntata di ieri di Report e le accuse al sindaco di Verona Tosi. Contatti con la criminalità organizzata calabrese, presunti video nei quali comparirebbe vestito da donna o in compagnia di transessuali. L'inchiesta realizzata da Report sul comune di Verona e sul suo sindaco Flavio Tosi spinge addirittura il forzista Alberto Giorgetti a chiedere al prefetto un'indagine per decidere se sciogliere il consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Lui non ci sta, è intervenuto ad effetto giorno su Radio 24, replica così. Gli interlocutori sono gente buttata fuori dalla Lega, disperati, gente coperta, cioè ci fosse uno che avesse dato una notizia vera, invece appunto quando costruisci la macchina del fango funziona così. Annuncia querele alla Gabanelli a Sigfrido Ranucci, autore del servizio, e sul video, sulle foto aggiunge. Guardi, io solo quello che non usa il profumo, non mette braccialetti, tendenzialmente non ho quel tipo di tendenze, ma di anche quello appunto chiunque può andare in televisione e dire ho sentito che la Gabanelli fa la prostituta, ma non lo so, lo nego, magari è vero, magari no, cioè se cominciamo così è la macchina del fango per tutti. Di certo la giunta veronese non gode di buona salute. L'ex vice sindaco Vito Giacino è stato arrestato in febbraio con l'accusa di corruzione. L'assessore Giorlo 5 giorni fa aveva dichiarato di volersi prendere una pausa di riflessione per poi ripensarci ieri. L'impressione è che le novità non siano finite. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Verona. Spostiamoci all'estero con la tensione crescente in Ucraina. Abbiamo parlato ieri già di questo progressivo sbriciolamento dell'Ucraina. Gli insorti filorussi che occupano la sede regionale dei servizi segreti a Lugansk, nell'est del paese, nella parte orientale, tengono in ostaggio 60 persone. 60 persone hanno minato l'edificio, così dicono i servizi segreti di Kiev. E poi, tornando invece sulla cronaca italiana, parliamo del tragico incidente del lavoro avvenuto oggi a Molfetta, con la morte di due operai all'interno di una cisterna, proprio come era avvenuto sempre nella stessa città. Ancora una volta sono morti cercando di salvarsi l'un l'altro. Ancora una volta sono stati uccisi dai veleni di una cisterna, proprio come 6 anni fa altri operai, sempre a Molfetta. Hanno perso la vita a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Nicola e Vincenzo Rizzi, 50 e 28 anni, padre e figlio, addetti di una società di autospurgo al lavoro all'interno della ditta di prodotti ittici di Dio. Si sono calati in quella cisterna richiamate dalla richiesta di aiuto di un terzo componente della famiglia, Alessio. Il primo è stato il padre. Poi, visto che le esalazioni di quei liquami stavano stroncando anche lui, l'altro figlio, Vincenzo, non ha esitato a calarsi a sua volta per soccorrerli. Ma alla fine solo Alessio sarà tratto fuori dalla cisterna ancora in vita. Così, in una mattina di primavera, nella periferia di questa cittadina pugliese, si è tragicamente ripetuto quello che il 3 marzo 2008 si era già consumato solo a pochi metri di distanza. Allora, a morire a Molfetta in una cisterna della Track Center, intossicati dall'acido solforico, furono 5 operai. 6 anni dopo la storia si ripete, con un padre e un figlio uccisi da altre esalazioni e dall'istinto di andare l'uno in soccorso dell'altro. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo invece dei test dell'università. Stamattina è stato il test d'ingresso a medicina e odontoiatria, oltre 64.000 gli studenti iscritti, ma solo 1 su 6 verrà ammesso. Domani poi si fa il bis con veterinaria, giovedì toccherà architettura. I risultati dei test poi saranno pubblicati il 22 aprile per medicina e odontoiatria e man mano anche per le altre facoltà. Ma adesso è facoltà di Dario Ricci aggiornarci sul calcio, sulla Champions, visto che c'era stato anche, diciamo, ha irrotto il calcio anche il Consiglio dei Ministri, la conferenza stampa di Renzi. Dario Ricci. Eh sì, è proprio così, con la maxi squalifica a destro su cui Roberta hanno ironizzato sia il premier Renzi appunto che il ministro dell'economia Padoan. Ben più serie invece le cose in Champions League. Certamente. È la Champions che stasera elegge le sue prime due semifinaliste. Allora siamo intorno alla mezz'ora di gioco, sia a Dortmund dove il Borussia è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al 17esimo di Reus. In precedenza al 15esimo il Real Madrid ha fallito un calcio di rigore con Di Maria che si è fatto ribattere la conclusione da una splendida parata di Weidenfeller. Ricordiamo all'andata 3-0 per il Real Madrid, ma con il Borussia non si può mai scherzare. 0-0 invece a Londra tra Chelsea e Paris Saint-Germain, londinesi chiamati a rimontare il 3-1 subito a Parigi all'andata, ma hanno già perso per infortunio al 18esimo Hazard sostituito da Schürrle, e finora insuperabile è stato Sirigu, anzi no, superabile proprio in questo istante, Roberta, perché Schürrle, proprio il nuovo entrato, ha siglato in questo istante l'1-0, quindi battuto il portiere Sirigu, l'italiano del Paris Saint-Germain. Chelsea in vantaggio 1-0, è già a metà dell'opera, perché a questo punto basterebbe un altro gol ai Blues di Mourinho per qualificarsi. Ci dirai dopo allora se arriverà un altro gol. Intanto qui mi fermo per aggiornare invece chi sta andando, chi sta viaggiando. Vi ricordo che poi ci sono, per i vostri commenti sui vari temi che tratterò con gli ospiti, la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi SMS al 349 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, vediamo se riusciamo a sentire qualche battuta di Crozza Ballarò. Nel tagliare che il PD si è tagliato da solo, cioè diciamo che il PD sta al governo e contemporaneamente si fa pure opposizione. Come possiamo definirlo? Un organismo autosufficiente? Mitocondrio? Possiamo dire che è come il mitocondrio? Solo che il PD è più mito contro, cioè una banda di mitomani l'uno contro l'altro. Per chi non comprendesse l'esempio del mitocondrio, quelli del PD potremmo anche definirli ermafroditi, cioè hanno entrambi i sessi, praticamente si fottono da soli ma non godono mai. Ecco, sentiva leggermente disturbato, ma il senso è arrivato molto chiaro. Vi ricordo adesso, prima di salutare il primo ospite, quali sono stati i fatti principali della giornata. Il governo vara il DEF, il documento economico finanziario, e Renzi dice è stata un'operazione di giustizia sociale. Poi gli 80 euro, fa sapere, arriveranno dalla spending review, dalle quote di Banca Italia. Intanto il Fondo Monetario Internazionale dice adesso le riforme. Tensione nel PD, come ricordava Crozza, sulle riforme, slitta il disegno di legge sul Senato. Il Movimento 5 Stelle strizza l'occhio alla minoranza democratica. Forza Italia intanto incita, dice, avanti sul patto. L'Ucraina, Kiev contrattacca nell'est ribelle, Mosca evoca la guerra civile, Ucraina e Russia aprono i negoziati, intanto arrivano nuove accuse dagli Stati Uniti. E poi l'incidente sul lavoro a Molfetta, un operaio rischia la vita, il padre e il fratello muoiono per salvarlo, come era successo qualche anno prima, sempre nella stessa città. E per il calcio avete sentito che la Champions questa sera sceglie le prime due semifinaliste. Adesso parliamo invece di questo benedetto DEF, sentiamo un po' quali sono i dettagli, anche come si possono commentare, con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Benvenuto Fabrizio. Allora, mi sembrava come al solito sicuro di sé Renzi nel presentare il documento di economia e finanza, ha parlato delle privatizzazioni, di spending review, ha ricordato questi 80 euro che arriveranno. E poi, a proposito della crescita, c'era stato questo allarme del Fondo Monetario Internazionale che ha detto sì, però adesso ci vogliono le riforme, la crescita, c'è una leggera ripresa, la disoccupazione resta alta, addirittura ha detto che praticamente, con un giro di parole, che noi l'anno prossimo staremo peggio della Grecia. Però sentiamo che cosa ha detto tra i vari passaggi Renzi a proposito appunto della stima di crescita. Il rispetto che si deve a previsioni che io ho definito rigorose, lui stamattina mi ha corretto dicendo semplicemente serie, però insomma noi la crescita la stimiamo allo 0,8, che è diversa dall'1,1 su cui era stimata. Ecco, questo molto sinteticamente, poi sentiremo altri passaggi. Fabrizio Forché, tu hai seguito la conferenza stampa, ne scriverai domani sul Sole 24 Ore, no? Sì, no, questa che fa Renzi sulla crescita è una piccola notazione polemica verso il precedente governo. Saccomanni, eccetera. Beh sì, siamo sempre lì, lui continua a sottolineare come dire, la lezione del rigore lui non l'accetta dal precedente governo, e sottolineanzi come noi siamo stati più rigorosi di loro, perché nella previsione della crescita mettiamo 0,8, mentre invece il precedente governo aveva stimato una crescita di 1,1, che ad oggi è oggettivamente irraggiungibile per quest'anno. Le stime del Fondo Monetario parlano appunto di una crescita 0,6. Ora, questo governo con questo piano economico deve però guardare oltre e deve cercare di rilanciarla questa crescita, perché è evidente che se noi non riusciremo a crescere nei prossimi anni ben oltre l'1%, non riusciremo a sostenere nemmeno gli obiettivi di rigore sul deficit e il debito, i famosi vincoli che ci chiede l'Europa. In questo senso è un buon piano. Il piano unisce, secondo me, rigore e unisce ambizione. Il rigore, l'abbiamo detto, magari in questa stima di crescita, ma è anche in una stima del deficit al 2,6. Si era parlato dell'ipotesi che il governo spingesse la stima del deficit fino al 3%, fino al limite dei vincoli europei. Non è stato fatto ed è un segnale di rigore e di attenzione verso le richieste che vengono dall'Europa. Però poi c'è un ambiziosissimo piano di riforme che va dalla pubblica amministrazione al fisco, al famoso cuneo fiscale appunto, che va tutto ancora realizzato, per ora è annunciato, ma che va seguito con interesse, perché oggettivamente sono le riforme che chiediamo da anni e che in questo paese non sono mai state fatte. A questo proposito, Fabrizio Forché, sentiamolo il passaggio sul cuneo fiscale. 10 miliardi di euro di taglio di cuneo fiscale, ok? L'avevamo detto non nella conferenza stampa della televendita del pesciolino rosso, ma l'avevamo detto in Parlamento quando ci eravamo impegnati per un taglio del cuneo fiscale a doppia cifra. Partì la discussione, ma che è il 10%? No, è andata male, sono 10 miliardi. La copertura per il 2014 è una copertura che riguarda 2/3 del periodo, perché parte, come ricorderete, dal 1° maggio al 31 dicembre. 8 su 12 sono 2/3 e quindi la copertura è di 6,7 miliardi di euro. Questo tipo di copertura è così formato: 4,5 miliardi dalla spending, 2,2 miliardi verranno dall'aumento del gettito IVA e dall'aumento della tassazione sulla rivalutazione dell'operazione Banca d'Italia, quindi saranno le banche a concorrere a questo esercizio, a questo sforzo. Quindi ha ricordato anche questo provvedimento che ha fatto tanto discutere, no? Fabrizio Forché, della rivalutazione delle quote di Banca Italia. Ha ribadito l'impegno appunto a ridurre di 10 miliardi di IRPEF su base annua, ha declinato le coperture in maniera più chiara, appunto avete sentito 4,5 miliardi della spending e poi ci saranno l'IVA sui pagamenti PA e a sorpresa è spuntato questo prelievo sulle banche. Un prelievo sotto molti aspetti comprensibile, come dire, le banche sono tra i soggetti meno popolari oggi in Italia, forse competono solo con i parlamentari o forse con noi giornalisti, ma insomma sicuramente andare a prelevare sulle banche è un messaggio che si dà anche in termini di consenso sulla pubblica opinione. Io credo che su questo bisogna comunque fare attenzione, perché le banche poi alla fine devono prestare alle imprese, già oggi il credito alle imprese è molto strozzato e quindi questo prelievo, come dire, rischia poi di scaricarsi sul credito alle imprese e a loro volta dalle imprese ai lavoratori e alle famiglie italiane. E invece, a proposito di, come dicevi tu, di provvedimenti annunciati anche popolari, appunto le banche che sono piuttosto invise in questo periodo, sentiamo anche come intende ristabilire una certa equità a proposito per esempio degli stipendi dei manager pubblici. È evidente che c'è un messaggio in nuce. Noi con l'operazione degli 80 euro diamo la 14ª agli italiani. Gli italiani hanno la 14ª grazie a questa operazione fatta dal governo. Ma la 14ª è un obiettivo che noi abbiamo perché pensiamo che sia un fatto di giustizia sociale, non è demagogia elettorale, è giustizia sociale. In questi anni alcuni hanno preso tanto, per non dire troppo. Per esempio, mi spiace dirlo qui, anzi no, sono contento di dirlo qui, i manager pubblici. I manager pubblici, con il decreto del 18 di aprile, non potranno prendere più di quello che prende il Presidente della Repubblica. Siccome Napolitano si è autoridotto a 238.000 euro, il limite è 238.000 euro. E anche su questo è stato abbastanza chiaro, no? Quindi a parte queste cose che certo daranno un po' di soddisfazione a tutti noi indignati, no? Per certi stipendi, per certi sprechi, eccetera, comunque ti convince complessivamente, Fabrizio Forché, questo DEF? Il piano è un buon piano, unisce secondo me l'ambizione appunto di Renzi e il rigore di Padoan in questo modo. È uscito un mix dei due soggetti, del Ministero dell'Economia e di Palazzo Chigi, che noi da sempre diciamo che c'è il rischio si possano contrapporre in maniera rovinosa per questo governo. In realtà in questo caso mi sembra che hanno lavorato bene insieme e il documento che ne esce è un buon documento programmatico. Sarà un'altra cosa tradurlo in realtà, tradurlo in decreti, tradurlo in leggi. Qui il lavoro diventa più difficile e su questo dovrà essere Renzi dovrà essere monitorato con attenzione fino a venerdì, non di questa settimana, la prossima, quando finalmente questo decreto, questa IA di IRPEF dovrebbe vedere la luce. Bene, aspettiamo la luce allora. Grazie Fabrizio Forché. Grazie. Ciao e buon lavoro. Oh, adesso ci prendiamo una pausa di pubblicità, vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, soprattutto appunto anche quelli di ieri sull'accordo tra Renzi e Berlusconi, se continuerà sulle riforme. Adesso invece il vulnus, il problema potrebbe essere all'interno del PD stesso, come ironizzava lo stesso Crozza, perché la minoranza del PD ha presentato un disegno di legge per una riforma diversa del Senato, e proprio di Senato parleremo tra poco, quindi se volete continuare con i vostri messaggi al 349-238-6666 per gli sms oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, sempre la pagina Facebook a vostra disposizione di Effetto Notte. Vi ricordo, visto che c'è stata una pausa, magari siete dimenticati oppure avete acceso in questo momento la radio, quali sono state le notizie principali di oggi. Il governo ha varato il DEF, il documento di economia e finanza. Dalle privatizzazioni arriveranno nel 2014 12 miliardi, poi abbiamo parlato di spending review, delle rivalutazioni delle quote di Banca Italia, da lì arriveranno anche i soldi. La riforma del Senato, il PD si spacca, il Movimento 5 Stelle apre al disegno di legge della minoranza del Partito Democratico. Crisi, il Fondo Monetario insiste sul rischio deflazione e incita ancora sulle riforme. E poi l'incidente sul lavoro a Molfetta con un padre e il fratello di chi rischiava la vita, che sono morti per salvare un incidente simile a quello che è successo nella stessa città qualche anno fa. L'università in 64.000 oggi al test di medicina per soli 10.000 posti, domani e giovedì poi ci saranno le nuove prove e poi ci aggiorneremo sulla Champions che sceglie questa sera le prime due semifinaliste. Oh, quindi parliamo appunto del Senato, questa riforma che fa discutere, capire anche se tra l'altro fa discutere per questioni proprio di convincimenti, di teorie costituzionali e tecniche oppure per altri motivi. Sapete, a volte la politica bisogna saperla interpretare, leggere, capire nei suoi meandri mentali, nei retroscena. Comunque, insomma, ieri ne parlavamo perché c'erano stati questi attriti tra il governo Renzi stesso e Forza Italia, con in primis Brunetta. C'era stato proprio uno scambio di battute piuttosto duro, pesante. Poi c'era stata la telefonata di Berlusconi che aveva di nuovo ricompattato l'accordo tra Renzi e Forza Italia, e poi oggi invece è il PD che si spacca con la minoranza guidata dal senatore Chiti, che presenta un disegno di legge per una riforma diversa del Senato in realtà. Ma intanto cerchiamo di capire con Michele Ainis. Ciao Michele. Bentornato. Buonasera. Notissimo. Buonasera. Costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera e poi per l'Espresso, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università Roma III, ho scritto un sacco di saggi, oggi ha scritto anche il suo editoriale. Michele, quindi, prima di capire se sono in buona fede o in malafede, per quali motivi uno da una parte o dall'altro tirano su questa riforma del Senato, capiamo in cosa consiste intanto davvero fino in fondo la riforma del Senato che vuole Renzi, cioè non è un'abolizione del Senato, è un cambiamento, diventa una cosa diversa questo Senato, che diventa nella sua idea? Diventa un senatino, diventa un senatino. Piccolino, ridotto. Più piccolo di competenze, più piccolo diciamo di inquilini. È vero però, su questo mi pare che siano tutti d'accordo, anche quelli alla fine, quelli che hanno firmato il manifesto cosiddetto dei professori, che il bicameralismo perfetto quale esiste in Italia, e cioè due camere gemelle con le stesse competenze, dotate del potere di vita o di morte sui governi, con un ping pong legislativo che si chiama navetta, no? La legge rimbalza da Camera e Senato fino a che non ottiene il medesimo timbro. Ecco, tutto questo ha un costo, questo costo è ormai insomma insopportabile, un costo in termini di inefficienza, di farraginosità delle procedure e di così una vita pericolante e pericolosa per i governi, che infatti sono instabili. Governi instabili significa poi anche un malessere economico, perché per poter varare delle riforme economiche deve avere un po' di sguardo lungo, e invece se tu stai lì a pensare al giorno dopo non farai mai delle buone riforme. Anche se il bicameralismo perfetto, tu dici anche nel tuo editoriale, insomma, rappresenta una garanzia, no? Perché così il Senato sta attento a quello che fa la Camera sta attenta a quello che fa quello che il Senato, si passano diverse volte le leggi in modo da essere sicuri, al di là che poi ci siano 2000 emendamenti, che ci siano i passaggi che rallentano le riforme, le leggi, eccetera, eccetera. Bisogna trovare un equilibrio tra, no? È un equilibrio, voglio dire, nella vita di ciascuno e anche nella vita delle istituzioni bisogna sapere trovare delle vie di mezzo tra esigenze che, se tu declini in solitudine, diventano negative. Il bicameralismo lo è, e quante leggi, pensiamo solo alle leggi cosiddette ad personam, che molte volte i governi Berlusconi riuscirono a far approvare, altre volte no, proprio perché il Senato non le fece passare. Però adesso Renzi invece che ne vuol fare di questo Senato? Dicevi ridurlo di competenze e di persone, quindi rimpicciolirlo sia nelle competenze che nel... Allora, sì, nel disegno di legge che il governo ha approvato il 31 marzo e che non mi pare però sia ancora stato depositato al Senato per l'appunto, che cosa succede? Intanto dimagrisce il Senato, sarebbe composto da 21 senatori nominati per 7 anni dal Presidente della Repubblica, ne farebbero ancora parte i senatori a vita in quanto ex Presidente della Repubblica, perciò pochissimi, e poi ci sarebbe una doppia delegazione che rappresenta sia le regioni che le municipalità, quindi ne farebbero parte di diritto tutti i governatori regionali, e poi i consigli regionali eleggerebbero due loro delegati. Sul versante dei municipi, dei comuni, ne farebbero parte i sindaci delle città capoluogo di regione, e poi altri due sindaci eletti da assemblee di sindaci. Diventa un po' complicato secondo te, Michele, tutto ciò? O no, magari allora, mi pare così, messo da fuori. Ma io credo che il modello, insomma, con molte differenze ma anche con varie analogie, sia il Bundesrat, cioè la seconda camera che c'è in Germania, il Senato tedesco, dove ci sono dei membri dei Länder che funzione hanno? Hanno la funzione di trasferire al centro, allo Stato, le istanze, le esigenze dei territori, delle regioni. Quindi il Senato avrebbe questa funzione, però a differenza della Germania, dove tutte le leggi che riguardano i territori degli Stati membri hanno bisogno dell'approvazione del Senato, in questo caso non accadrebbe. Le uniche leggi che il nuovo Senato può approvare sono le leggi costituzionali. Su tutte le altre può chiedere così alla Camera di ripensarci e magari ripensandoci di ottenere una maggioranza più alta, però la decisione rimane alla Camera. Quindi perde il potere di fiducia sul governo il nuovo Senato. Perde il potere legislativo, eccetto che per le leggi costituzionali, e non è che gli rimanga molto da fare. Da qui, questo mi sembra un argomento su cui si dovrebbe ragionare, l'esigenza di rafforzarne le competenze, perché allora tanto vale abolirlo, il che secondo me non sarebbe nemmeno una bestemmia. Ci sono 39 stati al mondo che hanno una sola Camera, hanno un Parlamento monocamerale, per esempio in tutta l'Europa del Nord, dalla Svezia alla Norvegia e via dicendo, e quello che perdi in garanzie, perché il bicameralismo lo è, lo puoi recuperare con vari stratagemmi costituzionali. Ma quindi questo tu dici di rafforzare alcune competenze, però adesso dicevamo c'è il disegno di legge della minoranza PD che vorrebbe invece un Senato, come aveva già annunciato giorni fa Grasso, poi c'era stata tutta questa polemica tra Renzi e Grasso, il presidente del Senato, che poi è del PD, di continuare a mantenerlo come Senato elettivo, cioè eletto attraverso elezioni, non quindi con quelle modalità che prima spiegavi, no? I 21 senatori nominati da Napolitano, poi gli stessi senatori a vita, eccetera, eccetera. A te sembra, proprio per che sembrano delle diatribe interne ai partiti, chi vuole più potere in un senso, chi vuole far sentire il proprio peso dall'altro, o potrebbe essere una buona proposta questa, ci potrebbe essere una mediazione poi con l'idea di Renzi? Ma ho visto che oggi Renzi ha replicato a tutto questo dicendo che c'è qualcuno che cerca visibilità, per carità, può anche essere che siano strumentali, sia le riserve avanzate da Brunetta, sia quelle avanzate dalla minoranza del PD. Io credo che noi abbiamo un po' il dovere di esaminare gli argomenti per quello che oggettivamente sono o che soggettivamente ci sembrano, senza fare questa corsa al retropensiero, al machiavellismo che non ci porta a nulla. No, quindi, questo no, diciamo che siamo un po' diventati diffidenti col tempo, non Michele, per quel senso. Ne abbiamo anche tante ragioni, in effetti. Però qual è il rischio? Di passare dal poco, cioè da questo Senato impoverito, al troppo, perché se è un troppo, tanto vale tenersi il modello che c'è. Allora, se il Senato continuerà ad essere elettivo interamente, secondo la proposta Chiti, mi pare che siano questi termini, e allora non si capisce perché non deve avere il potere di dare la fiducia e revocarla ai governi. Cioè, la base di, voglio dire, le competenze di un organo costituzionale dipendono dalla composizione dell'organo, dalla formazione dell'organo e dalla legittimazione democratica di quell'organo. Se la legittimazione resta uguale, cioè noi italiani votiamo sia per i deputati che per i senatori, e non è che abbiamo un voto da una parte e mezzo voto dall'altra, allora quindi non si capisce più perché il Senato elettivo dovrebbe perdere il potere di fiducia, e poi però continuerebbe a legiferare su tutte le leggi che riguardano le libertà. Infatti, Michele, mi sembra un bel pasticcio per il momento, quindi aspettiamo di vedere che si diradi un po' la nebbia, che si chiariscano le idee, poi ci aggiorniamo anche su questo. Grazie Michele Ainis. A te e buona serata a chi ci ascolta. Ciao Michele. E tra chi ci ascolta naturalmente molti che viaggiano, quindi aggiorniamo anche chi viaggia e poi con gli altri temi a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sono ancora i vari temi, però prima, per esempio, dell'Europa, adesso vi ricordo quali sono state le notizie più in vista oggi. Naturalmente, verso sera è stato approvato dal governo il documento di programmazione economica e finanziaria. Renzi ha detto che è stata un'operazione di giustizia sociale, ha annunciato questi 80 euro che dovrebbero arrivare appunto a breve nella busta paga di chi guadagna fino a 1500 euro. Poi c'è la tensione nel PD sulle riforme, slitta il disegno di legge sul Senato, il Movimento 5 Stelle sembra aperto alla proposta della minoranza del Partito Democratico, mentre Forza Italia incita ad andare avanti sul patto, sull'accordo. E poi sempre tensione in Ucraina, ci sono appunto questi disordini nell'est, Kiev contrattacca nella parte orientale ribelle, Mosca evoca la guerra civile. Poi dopo ci aggiorniamo con la Champions League, però intanto parliamo del nostro appuntamento dedicato all'Europa. Michele Bordo, questa sera del PD, ospite di Elisabetta Fiorito e presidente della Commissione Politiche Europee della Camera, risponde all'appello di Matteo Renzi su una spending review europea. Europa 24 notte. Buonasera da Montecitorio, e questa sera incontriamo addirittura il presidente della Commissione Politiche Europee della Camera, l'onorevole Michele Bordo del Partito Democratico. Buonasera presidente. Buonasera. Allora, andiamo subito nel vivo. Matteo Renzi, il vostro Premier, ha auspicato una spending review anche a livello europeo. Insomma, a Bruxelles e a Strasburgo c'è da fare qualche sforbiciata, secondo lei? Ma ha assolutamente ragione. Noi abbiamo cominciato a farlo in Italia riducendo i costi della politica per i prossimi anni di circa 1 miliardo di euro, stiamo superando il bicameralismo perfetto, non si può tollerare che al Parlamento europeo si lavori con due sedi, con una moltiplicazione di costi assolutamente eccessiva e che i cittadini dell'Unione ormai non si possono più permettere. Bisogna razionalizzare anche là, abbiamo cominciato a farlo noi e è giusto che lo si faccia anche in sede di Parlamento europeo. Prevedete qualche delibera, qualche atto anche parlamentare italiano, insomma un suggerimento da parte della vostra commissione? Ma sarebbe importante se non ci fossero più due sedi parlamentari. Attualmente le sessioni del Parlamento europeo si svolgono a Bruxelles e a Strasburgo. Sarebbe utile che le sessioni del Parlamento europeo si facessero in un'unica sede, anche perché gli spostamenti dei faldoni, dei documenti, dei parlamentari europei costano ogni anno centinaia di milioni di euro. Riguardo invece a quello che è il Partito Democratico, finalmente avete scelto e fate parte del PSE, ma la politica economica europea deve cambiare, insomma questo vincolo del 3% che strozza la nostra ripresa va cambiato, va rimodulato? Deve assolutamente cambiare, noi abbiamo bisogno di un'inversione di tendenza, l'austerità e il rigore dei conti pubblici ha prodotto la recessione, ha aggravato la crisi drammatica che già si viveva in tutto il mondo. Adesso è il momento di cambiare e io penso che bisognerà puntare nei prossimi mesi molto di più sulla crescita e l'occupazione, perché è l'unico modo per far ripartire l'economia ed utilizzeremo il semestre di presidenza italiano a partire da luglio proprio per consentire all'Europa di concentrarsi su un'altra agenda, che sia tutto crescita e tutto sviluppo. Cosa state facendo a livello di Commissione? Ho saputo che ci sono delle novità sull'accordo di partenariato. Sì, in questi giorni approveremo una risoluzione con la quale impegneremo il governo ad utilizzare i fondi europei per i prossimi anni molto di più sulle infrastrutture che non a favore di misure che possano servire a rilanciare l'economia in un periodo di brevissimo termine. Dobbiamo puntare sulle infrastrutture perché credo che sia l'unico modo per poter rilanciare questo paese e soprattutto accorciare i ritardi del sud rispetto al nord. Allora ringraziamo l'onorevole Michele Bordio per essere stato con noi, ricordiamo Partito Democratico, presidente della Commissione Politiche Europee della Camera dei Deputati. Grazie. Grazie a voi. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. E restiamo ancora un po' sull'Europa, sulla privacy. Parliamo di una sentenza in particolare della Corte di Giustizia Europea, più che una sentenza è una nota, insomma ha dichiarato oggi la Corte di Giustizia Europea che è invalida, cioè non è valida la direttiva dell'Unione Europea sempre, sulla conservazione dei dati che obbliga a questa conservazione i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche come per esempio gli operatori di telefonia mobile a conservare alcuni dati degli utenti, tra cui per esempio l'orario di una telefonata o il numero chiamato. La direttiva finora era stata ampiamente applicata in Italia, una direttiva europea, e ha rappresentato effettivamente, come si può capire, un utile strumento per le forze di sicurezza per identificare responsabili di reati. Però la Corte, vi dicevo, si legge in questa nota, ritiene che la direttiva, imponendo la conservazione di tali dati e consentendovi l'accesso alle autorità nazionali competenti, ingerisca in modo pesante, in modo grave, sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata, la protezione dei dati di carattere personale. Ci saprà dire qualcosa, essendo il segretario generale dell'autorità garante della privacy, Giuseppe Busia. Ritrovato Giuseppe. Ben ritrovata, buonasera a tutti. Quindi in realtà era una direttiva europea che noi abbiamo recepito, ma adesso la stessa Corte di Giustizia Europea dice no, attenzione, perché questa direttiva in realtà ingerisce in modo particolarmente grave sui diritti alla vita privata. Addirittura la commissaria alla giustizia europea Viviane Reding ha detto che la sicurezza non è un super diritto, dice non è superiore quindi al diritto alla protezione dei dati. Certo, perché è una sentenza molto importante proprio per questo, perché ci ricorda e ricorda a tutti che il legittimo, giusto, doveroso perseguimento delle finalità di sicurezza, della repressione del crimine non può portare a una compressione eccessiva della vita privata. E i dati, diciamo la direttiva, la cosiddetta, noi la conosciamo come direttiva Frattini dal nostro commissario europeo, che fissava i tempi di conservazione del traffico, non solo il traffico telefonico ma anche il traffico telematico e i dati sull'ubicazione, cioè dove noi siamo quando usiamo il nostro telefonino ad esempio, sono dati delicatissimi, perché anche prendendo quelli più banali, quelli della i dati di traffico telefonico, quindi non sono i dati del contenuto delle telefonate. Ecco, non c'entrano i contenuti, sono soltanto a che ora c'è stata la telefonata, verso chi, no, fatta da quanto chi. Quanto è durata, da chi, eccetera. Ma sapere, per esempio, che io chiamo un certo numero con una certa frequenza, che le mie telefonate durano a lungo, che lo chiamo in orari di ufficio o non di ufficio, io riesco a sapere moltissime cose della vita privata di una. Niente, caduta, deve essere caduta la linea, evidentemente c'è stato un problema con la linea, con Busì. Adesso guardo velocissimamente i vostri messaggi, no, mi dicono che c'è già Stefano Totaro. Ciao Stefano, il nostro inviato al Sole del Mobile. Ciao Roberta, buonasera a te e agli ascoltatori. Stefano, sei la 53esima edizione del Salone Internazionale del Mobile, che anima Milano ogni anno. Si spera che sia una specie di vigilia del nuovo rinascimento annunciato da Renzi, no? Che possa questa settimana milanese un po' alimentare la svolta per l'economia italiana. Mi sembra un po' eccessivo che solo concetta lui, ma insomma è un incontro, un evento internazionale di grandissima portata, come sempre, Stefano. Beh certo, ovviamente i produttori tutti sperano che questo, che dal salone diciamo possa ripartire in qualche modo l'economia per questo settore che vive come tanti altri settori dell'economia italiana un momento abbastanza difficile. Sono stati presentati alcuni dati in occasione della 53esima edizione del Salone del Mobile che mostrano una flessione dal punto di vista dei consumi interni e invece resta il Made in Italy, resta forte all'estero, l'export è abbastanza in crescita, ovviamente non parliamo di crescite molto consistenti, ma in ogni caso consegno più all'estero. Ovviamente al Salone, Roberta, ci sono gli aspetti economici, ma c'è anche tanto altro, insomma, perché è davvero una fiera molto importante che punta molto sull'internazionalità per il settore dell'arredamento e soprattutto si può immaginare quella che sarà la casa del futuro. Insomma, basta camminare un po' fra i padiglioni, fare una specie di giro tra le cucine del futuro, le stanze da letto, il soggiorno, insomma ogni ambiente della casa è diciamo sviscerato in ogni padiglione, si vedono un po' quali sono le tendenze, quali saranno le tendenze del futuro, tutte improntate sulla tecnologia, perché la tecnologia la fa da padrone. La domotica, la famosa domotica. E poi c'è anche tutto il fuorisalone è fatto di tanti eventi, di manifestazioni eccetera, a cui partecipa anche il nostro Totaro. Adesso ti devo salutare, Stefano Totaro, ti ringrazio e noi ci sentiamo tra poco.